però mi sembra che sia una buona posizione, invece alle volte per un'altra posizione magari è troppo scadente. Avanti Eugenio. Io sento un borbottio, sto uscendo con... aspetta un attimo. Devo ancora scaldare, mi stanno tre passi. Capito, devo ancora scaldare. Perché di solito è regolato a 10. E niente, io sento solo un borbottio strano, poi non riesco neanche a capire cosa dici. Ho capito, infatti anche lui dice che non si sente. Evidentemente siete in una condizione l'uno rispetto all'altro in maniera poco propizia. Comunque lasciamo scaldare un attimo, come ha detto, magari può darsi che dopo con qualche watt in più riesce a sentirci. A proposito Francesco, dimmi quanto ti sto arrivando di segnale io. Per radio suppongo che vada bene, ma così per curiosità, avanti, io raramente chiedo controlli, anche perché non mi interessa più tanto, perché per me va bene qualsiasi segnale interessante che poi mi ascolti. Però così, per curiosità, visto e considerato che tu mi stai arrivando a Santiago Nove qua, quanto ti sto arrivando io, Francesco? Allora, tu mi stai arrivando qua con un segnale di 5 con picchi positivi a 8, la tua radio è 5 perfetta. Comunque, ripeto, io sono chiuso, sono chiuso anche per Sassari. Come sono chiuso per Sassari, sono chiuso anche per Porto Torres, capito? Ma lui però, stava per sé da Porto Torres, io ne avevo sentiti altri, però arrivavano con un certo segnale discreto, anche non per la Zappano. Questo, evidentemente, non so, magari sta facendo un bassa potenza, boh, non lo so, arriva basso, non riesce a superare il QRM, quindi... è un mezzo casotto. Vabbè, comunque il segnale quello lì, segnale 5 con picchi positivi a 8 è una radio di 5, a te capi. Ok, perché, sì, beh, certo, anch'io non è che sto usando potenze, sto usando 6 watt, 7 watt, non di più, per cui già va bene, dai, con quel vantaggio lì. Tu poc'anzi hai detto che stai usando un baracchino che ha 50 watt, ma è normale che ti sento un po' più forte, ma è normalissimo. Se no, di solito anche quando tu usi la potenza normale, per così dire, il segnale tuo è anche sempre quello, 5, 6, 7, non di più, 5, 6, 7, oggi è 9, va bene, dai, vediamo un po', Eugenio sta usando 3 watt adesso, aspetta un attimino, se scalda un pochino magari rende un pochino di più, avanti Eugenio. Sì, adesso sta andando a 3, forse adesso sta salendo un po', ma... un attimo che aumenta, ma non credo, se il lume arriva così basso a 50 watt vuol dire che non riesco proprio la posizione, non è delle migliori, capito? Oggi così ha detto, e poi ho l'antenna da Super Lem, 16 radiali, e dovrebbe essere una buona antenna, anzi lo è sicuramente. Adesso io non mi ricordo se è 5 ottavi o se è 3 quarti d'onda, penso un po', non me lo ricordo, però è una buona antenna, perlomeno per come è costruita, è ingombrante, quello sì, ecco, quello anche piace, vedi, con la Game Master non hai tutto l'ingombro, adesso mi dai, ma intanto è sul tetto, scherzo, è sul tetto, no, anche tu hai ragione, se non ti dà fastidio il vento quando i radiali fischiano, perché suppongo che anche quelli fischieranno, magari tu non li senti, ma io non la posso usare con quella condizione lì, perché a me mi dà fastidio durante la notte, alle 2 o alle 3 del mattino, quando c'è il vento sentivo fischiare, che era una bellezza, e invece con questa silenzio di tomba, non sento proprio niente, vai Francesco. Quella lì è un'altra qualità, diciamo, un'antenna di altre qualità dei materiali, quindi rischia magari per quello. La mia non fischia l'antenna, ma fischiano, diciamo, i tiranti che ci ho messo, dai, fischiano i tiranti che ci ho messo, perché ripeto, nello stile tutto ancora ci sono 5 ancoraggi su, diciamo, circa 2 metri prima della cima dello stile. Ok, insomma, ed è ancora tranquillo. Niente. Tutto qua. No, Repubblico, tu qua nel tuo segnale è 7-8, dici anche a 9 nel 5, ma oggi sta facendo, diciamo, più basso. Vabbè, comunque è stato bello lo stesso, vai, non c'è problema. Bene, bene. No, io qua non c'ha niente a che fare con un baracchino questo ricordo, non c'ha, manco lontanamente, ma manco lontanamente. Io qua sto usando. Sono rientrato comunque. Dai. Ok. Ovviamente lì con 220 alfa, ok. In pratica da 50 watt, in banda da oltre i 100 watt, ma banda però, AM qua da quel wattaggio lì, 50 watt, così almeno segna questo strumento che sto usando io. Dopo non lo so, è tutto qua, a te cambio. Ok, intanto è rientrato Roberto, è rientrato, c'è anche Eugenio, vabbè, fa un po' te lo faccio sentire. Sì, beh certo, anche se non hai niente attaccato, però è la radio che ti dà quel wattaggio lì, per cui è ovvio, no, è normale, non ce ne sarebbe bisogno di mettere niente, visto considerato che hai una radio che ti dà 50 watt in AM, per cui va bene così. Va bene, avanti Eugenio per Roberto. E allora Roberto, che si dice? Siamo un po' lì a sentirci. Ciao Gio, infatti l'altro giorno ho detto ma oggi non si è più fatto sentire, ho in giro il camper, ho indaffarato col lavoro, vabbè, certo il periodo buono è questo, buono nel senso di travaglio, non di coro, di altro, tutto a posto oggi comunque. Sì, a voglia, a voglia, no, giro in camper niente, no, lavoro, vabbè, lavoro, giorno, notte, sera, sempre, questa stagione ci ha devastato. Per i miei figli. Lo so, anche io te lo auguro, però purtroppo il tipo di lavoro tuo ti comporta questi sfacchinamenti, soprattutto quando c'è caldo. Di nuovo a te Giulio. Ok, sì, io dai vi lascio che avevo fatto mio fratello che scambio due chiacchiere con lui, poi non lo so se va via subito, va bene, allora ritorno e devo scendere giù, che è giù che mi sta aspettando, perché io già lo sapete, io sono in una casa a più ripiani, a più livelli, per cui sono in alto e lui è in salone giù, stanno parlando con i miei. Ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, saluto a te Roberto, a te Francesco e a te Eugenio, io vado giù, c'è mio fratello. Saluti a tutti, riprendi pure Eugenio, ascolto finalino magari tutti e poi chiudo, vai Eugenio, cioè vai Francesco. Ok, allora buona chiacchierata, Giulio e saluto cordiali, buon proseguimento di serata, ok, ci sentiamo in altre condizioni, ok, perfetto, a te il cambio Roberto. Ciao Giulio, ben sentito, grazie della chiacchierata, buon tutto, vai Eugenio. Ciao Giulio, ti intendimmo, vai, adesso cerchiamo di entrare più spesso secondo volare, vai, ciao, buona serata. Riprendi Franco o Francesco, Franco. Ok, perfetto. Ora bene, vedo forse se noti qualcosa di diverso dalla radio adesso, ma prima adesso, vediamo tu o dovete prova, vedo tu Roberto. Ma hai cambiato radio perché ti sei abbassato di segnale e poi la radio la sento un po' gracchiante, non è bella nitida, si capisce ma non è gracchiante, cioè non è, cioè leggermente gracchiante. Non ho cambiato niente, non ho ascoltato il mic gain del microfono, l'ho alzato a 4, ma non va bene, dai, io vorrei a 2. Ok, sì. Perfetto, va bene, va bene. Aspetta, c'è qualcuno che sta cercando di entrare, avanti che vuole entrare su 10? Tu, non dire che non è a Puglia, dai, ripeti tu Eugenio. Puglia, adesso chiudo ragazzi, che ci sentiamo più tardi, datemi il tempo di mettere qualcosa sotto i denti, è questa mattina che non mangio. sai, a più tardi se ci siete ancora. Ciao, ciao anche all'amico di Osilo, se mi sente. Ciao, ciao. Ti riprendo io. Ciao, Roger, fatti sentire spesso, la sera tanto. Dopo le 7 c'è qualcuno, dai, quando vuoi, siamo qua. Poi se capite in zona ci facciamo un saluto, se capite dalle mie parti. Ciao, ciao, vai Francesco. Ok, io intanto Dio deve fare che non mi senta. Comunque, ciao Eugenio, sentiamo le prossime, dai, buon proseguimento di serata anche a te, saluto un cordiale, ok, perfetto. No, Eugenio poi arriva molto molto basso, il segnale è zero, la radio è appena appena comprensibile, sotto diciamo il QRM ovviamente. Si capisce quello che dice, ma è molto molto basso. Ok, perfetto. Anche io adesso per tanto parte di un pochino, dai, tanto non c'è nessuno, quindi. Non vale stare qua, vabbè, benissimo. No, avevo alzato il mic game qua del microfono, ma a quanto pare non vuole toccarlo, dai, deve rimanere qua a 2 e via, perfetto. Perché qua è stato tutto calibrato, anche il mic game dell'apparecchio, sennò qua è innescava tutto una disgrazia. Meno male sono riuscito a regolarlo bene. Deve rimanere così, dai, non vuole toccarlo, per manco per nessuno tipo. Benissimo, va bene, riprendi ancora Roberto e a te il cambio, dai. Sì, la radio va bene, però ripeto, ti sei abbassato molto di segnale, adesso sei 9,5 da 9,15 che eri prima, eri 10 punti in su, non capisco se hai diminuito qualcosa o verifica altri funzionamenti. No, no, io qua non ho toccato niente, ho toccato solo le micchiette del microfono e basta. Non ho toccato nient'altro, nulla. Mare, non lo so, forse prima l'antenna era di va meglio, non lo so, comunque si è abbassato un pochettino il segnale. No, Eugenio gli arriva forte, qua arriva 9,5, sta arrivando, non c'è problema. Più o meno il segnale tuo di adesso, poco fatto di più alto. E dimmi un po', tu sei molto aperto per le zone, quelle Badesi, zona rossa, lì riesci ad arrivare? Sì, arrivo sì lì, però io sono aperto, sì, a Rottieri lì, quelle zone lì, la 131, Tanguasco e quelle zone lì, dai, l'Impara ce l'ho proprio di fronte, tutte quelle zone lì, scappa. Arrivato anche in Corsica pure, ma a quanto pare quelli della Corsica lo stesso sono tutti spariti, non ne ho più sentito manco più uno. Strano, ma non da adesso, da parecchi anni fa non ho più sentito a nessuno. Arrivavo bene anche lì alla Corsica. Ok, riprendi. Sì, sì, se sei in alto, probabilmente tu sei rivolto verso quelle zone lì, ma l'Imbara, cazzo, arrivare all'Imbara vuol dire che c'è una bella posizione. Sì, sono in alto, io sono a Centro Turico, diciamo che sono sotto il castello. Sono sotto il castello, sono, diciamo, zona diciamo media del centro storico, dai. Ciao, ti trasferisci sopra al Monte Bonaria, lì ti piazzi un'antenna e copri tutta la Sardegna, lì sono 800 metri. No, veramente sono, mi pare che siano 750 lì. Sì, lì l'anno scorso sono andato, invece la Rally di Sardegna hanno piazzato il ponte ripetitore di trasferimento per i tempi, da Monterasu a lì, e poi da lì a Monte Panavera di Alghero, in diretta. Ok, e lì ci fanno, ma si seguono anche, ci sarà anche il conto lì, mi pare sentito poco tempo fa che c'era lì, ma io non sapevo. Vabbè che sono a piedi, mica mi faccio un'escursione a piedi, da quando arrivare lì ci vuole più di mezz'ora, ok, ho quasi un'ora pure da qua lontano. Ci sale Vittorio nell'elettrotecnico, per fare delle prove diciamo con altri, delle attenti diciamo portati, li ripiazzano e fanno dei collegamenti radioamatoriali evidentemente, senza fare tutto questo di rilevatore. Tutto qua. Magari, allora sì che sono stato diciamo in una posizione aperta, lì è proprio aperto, non c'è nessun ostacolo, proprio aperto, tutti i giri da tutte le parti, è proprio uno spettacolo lì, la migliore zona che c'è qua in paese quella lì, però lì, ripeto, sono 750 metri di altezza, quindi è una bella testa, è una bellissima posizione. Tutto qua. Sì, sì, dimmi una cosa, è la strada per salire a Sant'Antonio, è aggiustata la no? Sì, è aggiustata, insomma, così così è, già si può passare già, ma non è che puoi andare, diciamo, a 200 all'ora, perché è tutta mezzo devastata quella strada lì, il comune se ne frega quanto fare, l'avevo registrata in passato, ma dopo di nuovo rovinata, l'ho fatto, diciamo, un lavoro del campo, l'ho fatto, quindi si è tutta, di nuovo tutta mezzo devastata, ok. E niente, per salire di Aponelli è lo stesso, già si può salire, diciamo, però diciamo, non è che siamo dei migliori, ma già è, diciamo, è tutto asfaltato, ma se ci va piano è meglio. Ok, tutto qua. Allora, io sono salito 4 mesi fa su a Monaca, ci vado spesso quando c'è qualche, per dire, bel panoramia, cioè, sono salito ed era fra il pezzo della parte di Sant'Antonio, avevo di salire dalla parte dei ripetitori e poi hanno fatto un pezzettino di ferrato, attraversavano un pezzo di terreno per collegarti alla strada di Monaria, perché a Sant'Antonio non potevi salire diretto, dovevi fare il giro dai ripetitori e poi scendere giù a destra, hanno aperto un pezzo di strada con la ruspa, ci hanno buttato un po' di ghiaione per permettere di salire su al rifugio dell'Aquila. Mi sei mai salito? Penso di sì. Sì, una volta sono salito anche a piedi pure. Niente, sì, il rifugio dell'Aquila. Prima il rifugio dell'Aquila era lì a Sant'Antonio. Dopo il padrone che c'era prima, non so che cavolo l'hanno avuto, l'aveva buttato fuori dal locale e allora è andato lì a Bonaria, è andato e adesso è sempre lì, non è che prima si poteva salire, ma adesso lo posso fare, sono salito un altro paio di volte e sarà qualche paio di anni fa, però è diventato troppo caro, lui mi pare che sia non so se è uscito l'ospedale, se c'è ancora l'ospedale, non so come cavolo ha avuto quello lì, stavo male, quindi mi pare che era Olbia l'ospedale, prima era Sacero, poi avevo trascritto a Olbia, ma niente, adesso è diventato troppo caro, non mi piace, diciamo, tanto male che pensare, rimango qua nel fare di passo e via, e non sto lì a perdere tempo a salire lì, perché io non ho mezzo di trasporto, e quindi sono a piedi e non mi va di, diciamo, dice qualche volta quando mi gira ci salgo a piedi, niente, però c'ha, diciamo, tutte le bibite, diciamo, tipo per uscire con lì, a 3 euro, diciamo, l'uno, ho detto, ma cala, trinchetto, quando a vedermi di nuovo, ce ne passa il tempo sul caro. Ok, capito, quindi non è che io per andare a lui, diciamo, 3 euro lì, mi prendo, diciamo, l'autobus, facendo a Sassari, me ne vado, è migliore nel bar, dove vado sempre io lì, al bar Sassari, almeno lì sì, la pago 3 euro, però sono in un bar di lusso, me ne frego l'accidente lì, salire a Bonaccia, caspita, ma ti pare, no, a te cambio, riprendi. Bonaccia ce l'ho salito pure, quando ha fatto la primavera che è passata la cometa, c'era un corso, un raduno di, come si chiama, di astronomi, hanno portato gli strumenti, c'era un sacco di gente, alle 11 di notte sembrava in Piazza d'Italia, pieno di gente. Ma ti avevo detto, lì ci sale un sacco di gente, ogni tanto ci sale qualcuno a fare, diciamo, missioni, tipo queste cose che hai detto tu, e via, quella lì è una bella zona, dal punto panoramico, diciamo, è bello da vedere, solo che quando si rappenso lì non vuole salirsi, perché diciamo secondo me penso è anche freddo pure, non piace stare lì, ma comunque nelle belle giornate già è piacevole, diciamo, stare lì, c'è una bella dieta fresca, specialmente d'estate, lì si mette nell'ombra e si sta bene, capito? Del panorama, uno magari davanti a qualche birretta, se uno beve, o se no si guarda direttamente il panorama, sto qua, perfetto. esclusiva. Sono il panorama quando c'è una giornata piacevole che non ci sia troppo freddo, d'inverno se è freddo più ti caghi sotto. E dimmi un po', ma lì fanno anche la festa di Bonaria qualche un giorno dell'anno, in che giorno la fanno per aprire con la chiesa? Che... Ah, non lo so, ma quale festa qua? Mi pare che non facciano più niente. Non fanno più niente qua, no, da quando sono mancati diciamo i vecchi monasteri che c'erano una volta. Non fanno più niente, sono messe, basta, fanno qualche frontatina da niente, fa pure schifo, sono a perdere tempo e basta, non c'è più niente qua, nulla. Una volta io ti parlo di 35-40 anni fa, allora sì che ne facevano feste, magari facevano anche la festa, diciamo, magari festa no, ma diciamo così, facevano una messa per tornare, capito? Non lo so, magari non ci faranno una messa, non te lo so dire, perché io in chiesa, diciamo, non ci vado, perché ci sono andato da parecchio quando ero piccolo, quindi adesso non ci vado più perché ci sono andato troppo, quindi adesso mi ero stufato, quindi sono da parecchi anni che non ci vado più. Niente, tutto qua. Ok, vabbè, no, io pensavo perché in queste chiesette campiste, di queste di campagna, una volta all'anno fanno sempre qualche festa, qualcosa, perché la festa vostra la facevate a Sant'Antonio, non è così, a Osilo mi ricordo si andava, c'erano bancarelle, facevano anche serate cantanti, eccetera, eccetera. Stavo dicendo quello lì. No, facciamo quella di Sant'Antonio, però per via di questo stupido Covid che c'è in giro, anche sono già un paio d'anni che non ne fanno più manco quella di Sant'Antonio, capito? Non sono altri, ripeto, qua non c'è più niente, no, non hanno fatto più niente, perché diciamo gli interessati proprio che facevano tutte le feste sono tutti morti, quindi non c'è più niente qua, tutto deserto, tutto andato male, tutto svanito, capito? Sì, lo so. Vabbè, dai, adesso ti devo lasciare che mi hanno chiamato a mangiare, dai, mi fa piacere di aver fatto la chiacchierata con te. Se c'è qualcuno lo saluto, io faccio corretti, ciao Francesco, alle prossime ci sentiamo, ciao, buon proseguo anche a te. Ok, infatti stavo per chiudere anch'io, ci sentiamo, dai, buona serata, ci sentiamo alle prossime, ciao.